Buonasera a tutti, io vi do il benvenuto a Spazio Libro, è un'iniziativa di promozione del libro, della lettura, riflessione su tutto quello che gira intorno alla storia e cultura dell'Alto Adige e alla narrativa che la Ripartizione di Cultura Italiana organizza da ormai 8-9 anni. Questa iniziativa all'inizio durava 8-9 giorni, avevamo tutta una serie di iniziative che organizzavamo sia come ufficio che in collaborazione con altre biblioteche. Poi, considerando anche l'interesse da parte del pubblico e il fatto che i libri e la lettura hanno la loro casa ideale nelle biblioteche, da quest'anno abbiamo pensato di stringere una collaborazione più attiva con le biblioteche che il 24 ottobre, quindi domani, hanno la giornata delle biblioteche. Questo perché appunto in Alto Adige abbiamo una ricca rete di biblioteche con un buon patrimonio, con molte iniziative, e quindi era anche giusto spingere le persone a frequentare queste istituzioni, che sono delle istituzioni culturali di base, molto importante per la crescita della collettività. Tra le iniziative che organizziamo in collaborazione c'è anche questa iniziativa con la Biblioteca sulla Via Giusta, è una biblioteca provinciale che lavora ormai da più di 10 anni in Alto Adige e con la quale fin dall'inizio abbiamo stretto subito una collaborazione attiva, anche perché un po' come ufficio l'abbiamo vista nascere e crescere, e devo dire che adesso da alcuni mesi in questa nuova sede qui al Trevi è una biblioteca che in questi anni si è spesa veramente tanto per far conoscere la storia e cultura dell'Alto Adige e adesso sta facendo anche un'attività molto interessante di saggistica a livello scientifico. Qui a Bolzano abbiamo la biblioteca Tesman per il gruppo linguistico tedesco, la biblioteca universitaria che però si occupa anche degli ambiti legati alle facoltà universitarie, quindi l'attività della biblioteca Claudia Augusta è preziosissima soprattutto per tutta quella che la ricerca e lo studio in ambito umanistico, anche nell'ambito della storia. Abbiamo avviato di recente anche delle collaborazioni con le scuole superiori, i ragazzi di quarta superiore andranno in biblioteca a fare ricerca e a imparare soprattutto come fare una ricerca consapevole. Ecco, quindi questo un po' per riassumervi il contesto in cui si svolge questa iniziativa. Ringrazio Valeria della collaborazione, ringrazio il signor dottor Sparapani che presenta la sua opera, adesso Valeria la contestualizzerà meglio, e ringrazio il signor dottor Riccio, io con i titoli non so mai, che ormai da tempo ci accompagna. Grazie. Nelle presentazioni di libri sia per la biblioteca Claudia Augusta che anche per alcune attività che abbiamo fatto come ufficio. Non vi rubo altro tempo, vi ringrazio di essere venuti e lascio la parola a voi. Grazie Lucia, allora appunto avete saputo che questa iniziativa questa volta si inserisce in uno spazio nuovo, lo spazio appunto libro, che si ripresenta sempre in autunno. Parecchi mesi fa era venuto a trovarmi appunto il signor Sparapani con un mandato scritto e finalmente non c'erano più solo alcune industrie di Bolzano che erano già ben raccontate e documentate dalla nostra biblioteca, ma si apriva uno spiraglio su un'altra fetta di storia della nostra città, della nostra provincia, in particolare appunto quella sulla Magnesio, che è tornata alla ribalta poi anche negli ultimi tempi. Ci sono tantissime novità che riguardano la nostra zona industriale, ma anche il tessuto sociale e culturale che è, diciamo, inserito in questa evoluzione. Mario Sparapani racconta una sua storia inserita però in un contesto amplissimo. Per noi è sempre importante dare spazio anche all'individualità, alla persona, perché dalla storia di una persona si aprono poi delle porte incredibili su dei contesti sociali molto più ampi. 36 anni passati alla Magnesio sono tantissimi, soprattutto se misurati in un'ottica odierna dove il lavoro non è più una garanzia o una continuità o un investimento per tutta la vita, ma necessariamente è una cosa che cambia risvolto, oppure addirittura si è destinati a cambiare lavoro ogni 2-3 anni e reinventarsi. Con l'esperienza, la storia personale di Mario Sparapani, come forse di alcuni o molti di voi, è invece tutt'altro, un'esperienza di una fidelizzazione nei confronti di una fabbrica, di un lavoro con dei risvolti umani anche molto forti. Stasera ce la racconta e il protagonista, nonché l'autore di questa storia, e sarà accompagnato in questo percorso appunto da Giancarlo Riccio e anche da un apparato iconografico che ha portato dietro. Ci sono delle foto inedite che sarà sicuramente interessante guardare tutti insieme. Vi ringrazio e vi invito a frequentare, a venire a trovarci nella nostra biblioteca che, come ha detto prima Lucia Piva, è qua sotto nello stesso edificio al piano terra, dove appunto siamo aperti tutti i giorni. Grazie a voi e buona serata. Buona serata e benvenuti a tutti. Io voglio ringraziare naturalmente la padrona di casa e anche la signora Piva, che hanno dato ancora una volta un contributo importante a queste iniziative che, ne sono lieto, richiamano molte persone. In sottofondo stiamo ascoltando una canzone, vediamo se qualcuno la riconosce. Si sente qualcosa? No. Va bene, allora facciamola breve. Si tratta di Vincenzina La Patrica, che il mio vecchio carissimo amico, non solo mio ma credo tutti voi, Enzo De Annacci, ha scritto all'inizio degli anni 70 ed è stata la colonna sonora di Romanzo Popolare, un film che a suo tempo fece abbastanza rumore anche per il suo stile, per il suo alfabeto e tutto quanto. Iannacci è stato uno degli ultimi a raccontare La Fabbrica e sono contento che questa sera se ne parli da lì dentro con un protagonista di un'importante fabbrica, ex fabbrica. Sbarbani prima compilava un modulino e ha scritto ex magnesio, e certo non c'è più, e secondo diversi osservatori, docenti degli studi tecnici di Bolzano eccetera, con la scomparsa della magnesio è scomparso l'operaio, pensate. Vi accennava anche prima Valeria Trevisan, adesso da un po' di anni a questa parte giovani e non giovani devono affrontare un mercato del lavoro fluido e spesso maledetto anche, e tutto si sta trasformando, e quindi a maggior ragione questa pubblicazione di Sparapani, che speriamo diventi un libro vero e proprio, ma in fondo lo è, no? Lo è già, porti bene alla saggezza, se esiste, dei governi e dei ministri che si occupano di finanza e di economia. Tanto più che io ho sfogliato in questi giorni il mio giornale, il Corriere della Sera, il mio inserto dove scrivo spesso con grande piacere la lettura, ma soprattutto per esempio l'inserto economico del lunedì sia del Corriere che di Repubblica. Avessi trovato una volta la parola fabbrica, Bertone. E cari amici e cari amici, l'avessi trovato una sola volta. Economia, finanza, una serie di vocaboli inglesi contro i quali prima o poi ci dovremo scagliare, tutti noi, dai giornalisti in su, perché non siamo certo, come dire, le punte di diamante, ma al contrario, e la parola fabbrica non c'è. O bisogna andarsela a cercare chissà dove. È una specie di forse anche di tabù, chi lo sa, e comunque il cimitero. Allora siamo d'accordo con l'autore, che ringrazio ancora, sono molto contento, perché prima parlavo con i suoi amici e mi diceva sì, poi c'è un giornalista che mi fa da spalla, accidenti, che complimento e grazie, spero di poterlo meritare. Ma prima di chiamare una persona che è qui e che sono molto contento che si è venuto a trovarci, faccio all'autore una prima domanda, poi ci interrompiamo e coinvolgiamo il nostro ospite a sorpresa. Questo libro è nato, questa pubblicazione è nato in che periodo? L'hai scritto di notte, di giorno? Raccontaci qualche cosa che nel libro non c'è. Questo libro è nato perché a un certo punto volevo far testimoniare qualche cosa che giustamente la dottoressa Trevisan prima ha detto, cioè sono state scritte tante, le notizie degli altri stabilimenti ci sono scritte da una parte e dall'altra, della magnesio assolutamente niente. Della magnesio purtroppo non è, che tra l'altro non esiste assolutamente traccia, perché se noi prendiamo adesso, c'è una fotografia, mi pare sia che trasmetta, in quell'area è cambiato tutto. Quindi mi è venuta la voglia di mettere questo, perché con gli amici ci si parlava, e vi devo dire sinceramente che ero abbastanza deluso inizialmente, perché avevo in mano soltanto le fotografie della demolizione. Difatti ecco la ragione per la quale nel frontespizio di questo libro c'è la demolizione di quello che è una parte della fabbrica. E poi dopo, parlando, perché noi ci ritroviamo ogni anno, mostrando questo libro, uno ha detto: guarda che io ho altre fotografie, e quindi ho potuto un attimino sviluppare, perché tenete presente che il brevetto che era a Bolzano, era, cioè il procedimento che c'era a Bolzano, era brevettato ed era vietato nel modo più assoluto fare fotografie nell'ambito dello stabilimento. Ecco anche la ragione per la quale non ci sono notizie in giro. Ecco la ragione per la quale è nata questa spontanea, e poi anche perché per avere un ricordo mio, per avere un ricordo. Certo. E tra l'altro vi devo dire che anticipo un attimino quello che potrebbe essere una conclusione, nel senso che scrivendo questa cosa io ho origini, cioè venivo dalla campagna, ambivo ad andare nell'industria. Sono andato nell'industria negli anni 56. Quando ho finito, l'industria è finita, e quindi questa è un'epoca. Quindi il mio periodo di lavoro è stato un'epoca, nel senso che, perché adesso al posto di questa industria dove si lavorava, si trasformava qualcosa, esistono solo dei magazzini di deposito. Questa è parte della vita. Sì, questa è una delle cose, ma voglio dire, proveremo anche a fare, non dico a essere sorridenti a tutti i costi, ma anche a essere comunque stimolanti, e l'autore lo sarà moltissimo e con grande, bravura. Ma c'è una spigolatura che noi due non avevamo previsto, importante, adesso richiamo l'attenzione del professor Bertoldi, che è stato professore, non so, ma che dottore, professore eccetera, capito? Cioè, io ho due dottorati, e il parcheggiatore del Corriere a Roma mi chiama dottor senza sapendo che magari sono un impiegato del catasto, quindi va benissimo, i titoli sono una cosa molto aleatoria, basta meritarseli. Però e allora io so che tu hai, non sei qui per caso, permettetemi di presentarlo anche se lo conosciamo tutti, certo, e al lavoro che Valeria Trevisan, l'autoressa Piva, con altre responsabilità, e i collaboratori, i colleghi di Trevisan svolgono. Non sei qui per caso, vuoi darci qualche parola prima che l'autore prenda possesso di diapositive, microfono, luci, tutto quanto, e ci spodesti? Dai, chiedo scusa al divieto della magnesio di fotografare, perché, ma io ho fotografato all'esterno, era il 1967, un inverno, la fabbrica Magnesio era la fabbrica più disgraziata della zona industriale, perché i suoi operai, a cui io stavo accanto, erano i meno pagati della zona industriale. Allora un inverno del 1967 decisi, perché conoscevo alcuni che venivano da Pineta, da Milano, parecchi episodi, che io ero consigliere comunale all'Aives, e gli unici che pagavano la tassa, l'imposto di famiglia all'Aives, e quindi servivano al comune a tenere in piedi le sue finanze, erano gli operai che lavoravano alla zona industriale. Allora dovevo vedere chi erano questi operai della zona industriale, e andai a vedere e mi dissero che erano i meno pagati della zona industriale. Allora un inverno decisi che avremmo fatto assieme uno sciopero e gli ho portato le foto dello sciopero fatto all'esterno. Durò circa un mese, sempre d'inverno, perché gli scioperi nella zona industriale si fanno sempre d'inverno, mai d'estate quando è bello, no? Sempre d'inverno. E io era l'unica cosa che potevo fare la mattina, arrivavo giù in macchina e portavo una bottiglia di giappa. E allora i 4, 5, 6 che facevano il piccheggio, il picchetto, accendevamo il fuoco, abbiamo bruciato anche i copertoni, dopo io l'ho proibito perché inquinavano, ma dopo all'inizio mi portavano tutti quei, allora ogni mattina una bottiglia di grappa. Quando finimmo c'era tutta la fila di bottiglie di grappa lungo il muro che ci circondava. Qual era la richiesta? 50 lire di aumento al mese per tutti. Era una richiesta formidabile che sconquassava tutte le linee e ci ha fatto resistere per tutto un mese. Quello che ha fatto cedere la magnesio, quello che stava dentro e che proibiva di fotografare, è stato un volantino che fece il giro dell'Europa. Un volantino. Avevo parecchi compagni iscritti all'interno della magnesio e chiese a questi compagni una busta paga in modo da dimostrare che prendevano poco. Nessuno di loro mi detto, trovarono tutti una scusa, non l'avevo, non l'ho dimenticata a casa. Uscì una donna tutta imbiancata di polvere delle billette, una delle billette uscì ancora tutta piena di polvere e mi mise in mano la sua busta paga. Io cancellai il nome e cambiai qualche cosa per non farla individuare immediatamente e stampai in un volantino la busta paga della magnesio, dove la richiesta era 50 lire l'aumento. Il volantino ha fatto il giro dell'Europa, me lo sono trovato a Berlino, me lo sono trovato alla conferenza operaria di Torino e l'abbiamo diffuso in 3.000 esemplari in tutta Bolzano, perché la questione della magnesio doveva diventare una questione di Bolzano. Erano figli di Bolzano e di Pineta di Lemes, quegli operai che faticavano dentro per una misera paga. Il cemo. E allora io vi posso far vedere. Ecco. Poi dopo le vediamo, e comunque a questo punto c'è un futuro insieme di se andate avanti con la pubblicazione, no? Che a causa della sua cosa. Ho già finito. Grazie moltissimo. Grazie. Non è vero che c'è stato solo che ha fatto una canzone. Gualtiero Bertelli ha fatto una canzone per un morto, non alla magnesio, dentro quello che stava di fronte all'alluminio, perché è morto battendo i forni sull'alluminio, è morto, e Gualtiero Bertelli fece una canzone in memoria di questo. Questa è la zona industriale. La zona industriale è stata fatta da uomini. Erano migliaia e migliaia di uomini che lavoravano ogni giorno, e la consolazione di quelli che lavoravano in fabbrica con la magnesio era che forse i figli avrebbero potuto essere ingegneri dentro le acciaierie, perché le acciaierie sembravano lo stabilimento più avanzato dell'intera zona industriale. Grazie. Grazie ancora, ti ringraziamo moltissimo. Davvero. Nel mio mestiere arriva una notizia o una cosa in più, e credo che dobbiamo tutti ringraziare il senatore Bertoldi per questo, che per quanto ci ha detto, e che speriamo sia anche di buon auspicio per una pubblicazione più ampia dedicata al tema di questa sera, e anche senza. Se capiterà, magari non domani, magari non dopodomani, anche un po' più di attenzione di nuovo a questa strana bestia che si chiama fabbrica, e che, come sapete, ormai è diventato soprattutto a parte le vicende locali, ma in generale appartiene quasi del tutto a questa nuova concezione di archeologia industriale. L'Italia Sider vicino a Napoli, una zona amplissima della Ruhr in Germania, vecchie miniere, fabbriche, eccetera, che adesso sono una delle centrali culturali più importanti del mondo, non soltanto europeo. Quindi vuole dire, è come se Mario Scarafani, e beh, Bertoldi forse ancora di più, ma perché è più bello, no? Perché è più bravo, è più bello soprattutto, abbiano spalancato due straordinari portieri di informazioni, di suggestioni, e come si diceva una volta, di controinformazione anche. Va bene, abbiamo cominciato grazie all'autore e grazie a Bertoldi nel modo migliore. Sono contento di essere stato il boccino di bocce così importanti, così brave e così coraggiose. Torniamo a Mario Scarafani, che ha preparato un set di diapositive, una cosa scritta, per cui io ogni tanto lo interromperò, giusto perché lui beveva un po', non ce l'ha portata, per schiarirsi la gola, che ne so, perché non, il mio ruolo non potrà essere che quello. Allora, Mario, cominciamo e grazie ancora per il racconto. Cominciamo raccontando una cosa. Un signore prima ha portato questa cosa, lo vedete? È un pezzo di magnesio. Ce lo vuoi raccontare un attimo e poi cominciamo la proiezione delle depositive e i materiali che hai portato? Ah, vedi, dovevo portarmi anche io una cosa, se mai ce la dividiamo. Che cos'è questo pezzetto leggero? Questo che noi vediamo è un cristallo di magnesio. Questi indubbiamente è caratteristico perché, date che cosa meravigliosa, la condensazione, cioè del vapore, cioè il vapore di magnesio che andava a condensare in una determinata area fredda in determinate condizioni di pressione e temperatura, formava questi cristalli. Indubbiamente questi non è che la produzione, diciamo, era così, perché sarebbe stata veramente una cosa impossibile, perché qui queste sono aree in cui si sarebbe ossidato, ci sarebbe stato più ossido che magnesio. Il magnesio, quando veniva prodotto, era condensato in cristalli molto più compatti, e quindi questo era un po' una cosa che si faceva in un forno particolare, in un fornetto, così, tanto per avere la testimonianza di questi cristalli, che adesso ti sto rompendo anche perché sono fragili, lo so. Comunque, visto e considerato che devo anche iniziare io a parlare, innanzitutto devo ringraziare la dottoressa Trevisan e tutti coloro che in questo momento mi hanno dato una mano a poter esporre un attimino quello che è la fabbrica, perché io ex tecnico non ho trovato parole come ho sentito fino adesso, però io sono innanzitutto cercato di spiegare un attimino cos'è questo magnesio, che non dobbiamo confondere con quello che è il magnesio che normalmente si trova negli alimenti. Comunque la magnesio come fabbrica è stata l'ultima delle grandi fabbriche che sono sorte alla zona industriale, e la sua data di nascita è del 1939. Quando a quell'epoca si tendeva a incentivare la formazione delle industrie nella zona di Bolzano per ragioni politiche che noi già conosciamo, e quindi è stato inaugurato lo stabilimento. Proprietaria di questo stabilimento era la famiglia Montesi padovana, veneta, nota nel Veneto per i suoi zuccherifici, perché praticamente Montesi erano zuccherieri, però avevano degli interessi anche nello stabilimento di Bolzano, dove che facevano una lavorazione dell'ossido di bario che poi serviva anche nella estrazione dell'ultima parte di zucchero dalla melassa. Quindi a quell'epoca, quindi, essendo il proprietario un veneto, la maggior parte, quando lo stabilimento, la maggior parte degli operai specializzati proveniva dal Veneto, e tra l'altro una persona che proveniva da Padova, che in questi giorni se ne è parlato ampiamente, era il Manlio Longun, che a quell'epoca era direttore amministrativo della Magnesio. E quindi, se vogliamo soffermarci un attimino, lui anche accoglieva decine di partigiani, e la Magnesio, tra i suoi 800 dipendenti, trovarono una preziosa occupazione di copertura. Indubbiamente questa sua attività l'ha portato ad essere poi il martire della Resistenza. Questo brevemente, tanto per fare un piccolo accenno a quello che è la Magnesio. Ora, forse, non so, qualcuno mi dirà che non serve, ma però io vedo delle persone che forse sono interessate. Cos'è il Magnesio? Ragioniamo un attimino. Il magnesio è di gran lunga il leggero fra tutti i metalli, perché pesa un terzo in meno dell'alluminio. L'aspetto in lingotti, magnesio e alluminio, non è che si distingue, cioè, però soltanto se uno prende un lingotto di magnesio e un lingotto di alluminio sente la differenza di peso. E come viene utilizzato? Viene utilizzato in diversi campi. Viene utilizzato come struttura, quale costituente delle leghe ultraleggere, costituite principalmente dal 90% di magnesio e il resto con delle alliganti che possono essere l'alluminio, lo zinco, il manganese, lo zirconio ed altre. Poi può essere usato indipendentemente anche come allegante stesso nelle leghe di alluminio, quindi in percentuale nettamente inferiore. E poi viene usato, uno degli utilizzi che è molto importante, anche come protettore. Cosa vuol dire? È un protettore contro le corrosioni delle strutture di ferro interrate e immerse nell'acqua. La caratteristica di salvaguardare queste strutture, come nei contenitori, nei serbatoi, nei bollitori, nei nostri scaldabagni. Nei nostri scaldabagni esiste un anodo che protegge dalla corrosione lo scaldabagno. E dove si trova? Perché questo è anche importante. Si trova nell'acqua di mare sotto forma di cloruri, però la percentuale è molto bassa, 0,14%, nella dolomite, carbonato doppio di calcio e magnesio, che è circa il 13%, e nella magnesite, che è un carbonato di magnesio, che è il 28%. Adesso vediamo un attimino così quali sono i processi principali per la produzione del magnesio. Ci sono due processi che sono i molto più importanti. È il processo per elettrolisi che utilizza l'acqua di mare, e quindi questo è un processo che praticamente è stato sviluppato in un primo momento nella Germania, che e poi ha avuto un grande successo, perché la Germania, che aveva occupato anche la Norvegia, ha avuto un grande successo nello stabilimento in Norvegia. Questo stabilimento, che poi, finita la guerra, è stato ceduto in compenso per i danni provocati dalla guerra, e quindi è stato assunto dalla Norsidro. E impianti analoghi a questi sono stati sorti in America e per conto della Dow, e anche in Russia. Andiamo ora a vedere il processo silicotermico, che utilizza come materia prima la dolomite. Questa, cioè, la dolomite praticamente è importante conoscere che e per questo è nato questo stabilimento in prossimità a Bolzano, perché la dolomite è un minerale che conosciamo tutti benissimo, le dolomiti. Quindi il processo è abbastanza complesso, poi vedremo un attimino con delle fotografie, vi farò un attimino la storia di come si procede. E quindi in un primo momento si deve fare trasformare questo carbonato, che è un doppio carbonato di calcio e magnesio, si deve trasformare in ossido. E questo ossido poi deve essere unito ad un riduttore, e il riduttore è il silicio metallico, che praticamente per questioni economiche si usa il ferro silicio, è un tenore lettamente più basso. Questi due elementi messi in intimo contatto a alte temperature con la dolomite calcinata, il silicio reagisce con i due ossidi, con l'ossido di calcio e l'ossido di magnesio, e quindi libera il magnesio allo stato di vapore. Questo vapore va prelevato dalla camera di reazione, noi sappiamo benissimo che il vapore tende ad andare verso l'alto, quindi a un certo punto, con un percorso ben definito, questo andava a finire nella parte alta del forno e quindi andava a condensarsi nella zona più fredda, e chiaramente per poter avere questa condensazione era necessario regolare convenientemente sia il grado di vuoto e la temperatura. Indubbiamente tutte queste cose comportavano ad avere degli impianti che garantivano queste condizioni in qualsiasi momento. Ecco, vogliamo cominciare a vedere alcune immagini? È arrivato il momento? Beh, forse è meglio parlare un attimino di quello che potrebbe essere, perché, sì, prima che i primi rapporti di carta come prima classe di persone attente comincino a volare, che anche questo è segno di interesse. Beh, se vogliamo vedere, allora tanto poi riprendiamo qui, però, per esempio in questo momento vedo che c'è una immagine di quello che è la magnesio, un'immagine aerea di quello che è la magnesio, e questo qui diciamo che è una fotografia che è abbastanza nella parte, diciamo, già negli anni 80, perché io che conosco perfettamente vedo che qui vi sono già delle aree, a parte l'area finale che è quella della campagna, vi sono altre aree che erano state già ampliate per avere questa massima produzione. Se noi vogliamo vedere l'origine della dolomite possiamo andare indietro, e allora andiamo a vedere, eccolo, questa, ecco, l'origine della dolomite è in questa zona, che questa zona, se voi passate sull'autostrada o sulla statale andando verso Trento, sulla sinistra vedete che c'è ancora, questa è un attimo prima di Rovere della Luna, e a nord di Rovere della Luna. Questa è un'area che è stata individuata dopo varie ricerche, perché si presentava abbastanza favorevolmente, e qui si vede l'inizio, questa si vede quella parte più bianca che è già l'escavazione, perché lì è stato creato un imbuto, e sotto vi sono le tramoge che raccoglievano il materiale. Questa fotografia indubbiamente successivamente, perché ecco, questa è una sezione, si vede esattamente la traccia dell'imbuto dove che è stato cavato, e quelle che erano poi le parti terminali, perché dovevano fatte delle gallerie per poter estrarre il materiale e portarlo nelle tramoge. Questa è un po' Ecco, questo è il rone tramose e qui c'è questo impianto che si vede protetto da questa struttura in cemento armato e ci sono le tramose dove arrivavano gli 8 treni sotto per portare il materiale a Bozzano. Questo è uno schema di quello che era tutta la lavorazione che avveniva e questo sì, è un quadro sinottico per il comando di tutte queste cose. Questa è la prima fase, torniamo ancora allo stabilimento e quindi abbiamo visto da dove ha origine la Dolomite. E per quanto riguarda i forni bisogna accennare ad una cosa che è molto importante. Quando lo stabilimento ha iniziato a lavorare, i forni che c'erano erano forni che a quell'epoca erano gli unici che utilizzavano il processo silicotermico ed erano forni costituiti, forni da delle storte, dei tubi in cui si caricava delle navicelle, delle piccole navicelle di materiale pressato. Indubbiamente questi dovevano essere portati a temperatura di 1200 gradi per far venire la reazione. Tutti questi tubi indubbiamente dovevano essere tenuti sotto vuoto. Questa qui era la produzione che si aveva in questa serie di tubi, era una produzione molto, molto limitata, che uno di queste storte produceva 20 kg, quindi bisognava veramente averne tante per produrre. Difatti io ho trovato dei dati che la massima produzione in quell'epoca era arrivata a 240 tonnellate annue. Successivamente, per merito dell'ingegner Ravelli, che a quell'epoca era il direttore tecnico dello stabilimento, è stato impostato un altro tipo di forno e quindi che veramente, se io penso ancora adesso, diventa difficile immaginare come si erano potuti trasformare quello che erano queste storte in un forno che era qualche cosa di come si può dire, era talmente studiato, talmente bene, che avevamo dei rendimenti dell'estrazione che erano favolosi. Si riusciva ad estrarre tutto il magnesio presente nella dolomite con un residuo di bisilicato di calcio che poi veniva utilizzato, perché questo veniva utilizzato nell'edilizia come calce idraulica. Questo processo ha fatto sì che negli anni 50 successivamente la magnesio era riuscita a produrre più di 8.000 tonnellate all'anno ed è stato il momento in cui aveva maggior, il magnesio aveva maggior commercio. E dobbiamo dire che il merito maggiore, perché tutto questo magnesio veniva esportato, l'80% veniva esportato, e il merito maggiore di questo utilizzo è stata la Volkswagen. Noi dobbiamo ricordarci che nel Maggiolino la Volkswagen, se non sbaglio, c'erano più di 30 kg di lega di magnesio. Tutto il motore, il blocco motore, cambio, eccetera, poi altri particolari, era costituito da magnesio. Fin tanto che la Volkswagen ha lavorato in Germania, è andato tutto bene, però nel 1978 la produzione del Maggiolino in Germania è finita perché è stata trasferita in Messico. E chiaramente in Messico utilizzava magnesio prodotto dal continente americano, e questo era scontato. Quindi lentamente è venuto a mancare questa possibilità di mercato e poi Contemporaneamente sono anche sorti altri materiali similari con peso specifico all'incirca, che con un costo diciamo minore, e quindi praticamente lentamente il magnesio come struttura è cominciato a calare. Poi sono subentrati anche altre questioni che hanno fatto sì che il mercato, che la produzione di magnesio abbia trovato delle difficoltà, perché il costo energetico era abbastanza importante, e quindi sono venuti a mancare gli incentivi che venivano dati. A suo tempo venivano passati degli incentivi per poter appunto stare sul mercato, perché altre industrie, sia in Europa e specie anche in America, avevano degli incentivi, avevano delle questioni, delle tariffe talmente preferenziali che quindi diventavano veramente concorrenziali. Quindi a un certo punto altri fattori poi sono venuti, perché il costo dell'energia, le leggi contro l'inquinamento sia territoriale che atmosferico, che hanno comportato a dover fare una serie di filtri, e quindi con costi non indifferenti, e tutto questo. E poi è subentrata un'altra cosa: la caduta del muro, la caduta dell'URSS ha fatto sì che si siano aperti i mercati dell'est, e vi racconto, io a quell'epoca avevo finito di fare la parte tecnica, ero in ufficio acquisti, e si trattava di andare ad acquistare dei rotami per incrementare quello che erano le nostre produzioni. E mi ricordo che contattando un fornitore dell'area di Napoli, che aveva dei rotami, cioè lui ci acquistava, e a un certo punto mi sono sentito rispondere: io rotami non tratto più, perché ora tratto lingotto. Come tratti lingotti? Certo, io mi posso fornire dei lingotti che ricevo chiaramente dalla Russia, dall'estero. Per cui a un certo punto anche questo ha chiaramente scombinato un po' tutte quelle che erano. E quindi lentamente nel 1987 era magnesio, ha dovuto chiedere la cassa integrazione, c'è stato un primo schematura di personale che è andato in prepensionamento, e poi nel 1992 dicembre decisamente la magnesio ha dovuto chiudere. Questa è un attimino la storia della magnesio. Facciamo prendere il fiato all'autore, al quale però vorrei che ti volessimo già un primo applauso, perché lo sta raccontando così bene. Piero Angela e altra gente, se lo viene a sapere, credo che verrà con me a Villa Arzilla, dove siamo tutti destinati nel giro di pochi mesi a finire, forse. Ma forse no, anche perché ricambi non ne vediamo, francamente. Ma detto questo, facciamo riposare un attimo Sparapani, al quale però voglio chiedere anche una cosa, in attesa di una seconda serie di diapositive, immagino, no? Sì, certo. Comprese quelle segrete, quelle... Abbastanza. Beh, insomma, entrare in uno stabilimento e scattare delle foto è giornalismo, quindi lasciami dire che è una cosa importante. Se poi la proprietà si arrabbiava, chi se ne frega. Detto questo, la domanda che vorrei fare in corso d'opera all'autore di questa bella cosa e anche di questo bel racconto è: in fondo in molte fabbriche c'erano anche i crumiri, e come venivano, e come li trattavate? durante gli scioperi c'era anche chi non scioperava, c'erano delle tensioni al vostro interno dal punto di vista, non parliamo politico, anche se la politica è una cosa nobile se la prendiamo da un certo punto di vista, ma dal punto di vista sindacale, quando c'erano delle lotte sindacali, c'era la Magnesio, era tra le fabbriche più combattive o tra quelle che invece erano più, come dire, stanche e meno combattive, secondo il tuo osservatorio? Importante. A un certo punto mi pare che abbia già centrato il dottor Bertoli in questa situazione. Sì, ovviamente non era una situazione in cui, cioè, se noi ci mettevamo a raffronto appunto con quello che erano, non dico le Montecatini, ma le serie, noi avevamo un bel salto da fare. E quindi chiaramente gli scioperi non è che non ci fossero. Devo dire che indubbiamente la situazione è un po' quella che a quell'epoca, in quell'epoca lì, chiaramente lo sciopero era il mezzo per poter arrivare ad avere qualcosa, insomma. Tra l'altro io che facevo parte dello staff degli impiegati, mi ricordo che se Rodolfo tu te lo ricordi, che abbiamo fatto sciopero anche noi. Eravate i più poveri della zona. Eravamo i più poveri, certamente, ma mi ricordo che a un certo punto avevamo fatto un sciopero anche noi impiegati. Sì, poi dopo cosa che sia il risultato non me lo ricordo più. Non va il collasso della tradizione sociologica, soprattutto. Quindi, cioè, la situazione indubbiamente lì, se io devo fare una riflessione, adesso pensandoci un attimino, quello stabilimento, oggi come oggi, non potrebbe più esserci. Si stava facendo delle migliorie, perché si stava introducendo anche dei sistemi per robotizzare, per migliorare la situazione, eccetera. Però devo dire che il fattore umano che c'era lì dentro era una cosa straordinaria. In certe lavorazioni manuali era l'operaio che veniva e diceva: no, questo strumento mi devi preparare un attrezzo così, perché io con questo lavoro meglio. Era lui che suggeriva queste cose. C'era qualche cosa che veramente, riflettendoci un attimino oggi, sembrava impossibile. La situazione è che c'era un gruppo di personale femminile che lavorava in un reparto in cui io ritengo che oggi non sarebbe più possibile nel modo più assoluto. Quindi, se questi stabilimenti non hanno più ragione di essere, e io adesso non so bene perché in questo momento chi produce magnesio, almeno dalle ultime notizie che ho, forse qualcuno è più preciso, si fa in Cina. Il maggior produttore di magnesio in questo momento è la Cina, perché anche le fabbriche l'hanno chiuso, le fabbriche in America hanno chiuso, e quindi molto probabilmente perché le condizioni di lavoro sono ancora tolleranti e quindi lì possono produrre, possono lavorare. E quindi non so fino a quando durerà, ma questa è veramente una situazione. D'altra parte, immaginate che questi sono stabilimenti che trasformano, da un minerale si estrae qualcosa. Noi sembra una cosa impossibile, invece come la dolomite, in 10 kg di dolomite ci sta un chilo di magnesio. Questo è il nocciolo della questione. Quindi a un certo momento bisogna estrarla, e quindi lavorare questa cosa. Tra l'altro magnesio non faceva soltanto magnesio, Magnesio faceva ferro e silicio, di cui adesso vedremo delle immagini molto interessanti, erano i forni che facevano il materiale che serviva, perché il riduttore era il ferro e silicio, quindi la magnesio lavorava in zona, utilizzava il materiale della zona, utilizzava quarzo che veniva dalla Valle Tangone, nel Trentino, eccetera, consumava l'energia che veniva prodotta qui e quindi aveva ragione di esistere in questo, in quel contesto, in quel momento. Oggi come oggi molto probabilmente non esisterebbe più. Ora vediamo, qui abbiamo visto l'area panoramica della magnesio che è inserita, l'area era molto vasta perché sono circa, se non erro, sui 13-14 ettari. Qui si vede chiaramente tutte quelle che erano le strutture, i capannoni. Ecco, adesso incominciamo. Abbiamo visto l'origine della Dolomite. Nel 1963, fino al 1963, quali erano i forni di calcinazione? Erano i forni di calcinazione verticali, cioè verticali classiche fornaci che si vedevano, perché poi alla fine la calce, non è che, cioè trasformare il carbonato in ossido vuol dire calcinare, cioè come quelle che si vedono, la calce classica che si usa. Però questa non era una calce di calcare, ma era una calce di un doppio carbonato. Fino a quell'epoca andavano nei forni verticali. I forni verticali utilizzavano del materiale in dimensioni abbastanza, cioè quelle che caratteristiche la testa di bambino, cioè, si chiamava quella testa di bambino. Indubbiamente quando si scavava, e quindi c'era un forte scatto, perché doveva portare solo questi, trascurando le pezzature più piccole, il resto rimaneva in discariche. Dove c'era la miniera, e quindi si è trasformato il forno in un forno orizzontale, un forno rotante che prevedeva di lavorare del materiale anche molto più piccolo, e quindi tipo il clinker dei cementifici. Quindi questo ha fatto sì che ovviamente ci dava un grosso vantaggio dal punto di vista che c'era meno scarto in miniera. Due, dava la possibilità di lavare, perché questo materiale doveva essere lavato, perché la presenza di argilla durante la reazione provocava veramente dei grossi danni. Quindi meno argilla c'era, che argilla vuol dire alcali, e quindi questi erano l'accendino, perché il magnesio sappiamo benissimo che si prendeva fuoco facilmente, quindi questi facevano male, e quindi bisognava avere il materiale più pulito possibile. Quando arrivava a Bolzano veniva depositato, qui si vede un deposito con gli autotreni, veniva depositato, qui c'è la gru che si vede che lavorava per trasportare questa, ed ecco, questo è il forno rotante. Il forno rotante, se ben ricordo, 2,5 metri di diametro. Questo che vediamo, mi pare in fondo verticale, era il forno di preriscaldamento, e quindi questo praticamente era il posto dove che maggiormente ho lavorato. Passare sotto questo, nella parte iniziale qui, passare su questa passerella, era meglio avere il berretto, perché qui c'erano 300 gradi, quindi tanto per avere un'idea. E questo è il forno rotante che produceva circa 1000 quintali al giorno di calce, e questo è il quadro sinottico che permetteva il controllo di tutto l'impianto. Qui siamo passati a un'altra cosa invece. Questo, vediamo se riesce, perché sì. Questo è il piano dei forni ferro nero, dove si faceva il ferro silicio. Qui si vede chiaramente, cioè ci sono due forni in funzione, queste luci, questi baglioni che si vedono qui all'arco, perché sono forni ad arco elettrico. aveva una temperatura sono di 2000 gradi se non di più, erano caricati con quarzo, carbone e truccioli di ferro. Venivano caricati, adesso vedremo, questo era il piano di carica, qui vediamo, questa era una macchina stoccatrice, perché non ho trovato una macchina, c'era una macchina simile che portava una specie di canale che prendeva il materiale dalle tramoge e lo scaricava dentro, e questa era la macchina che permetteva di avvicinarlo ai tre elettrodi, perché c'erano, vediamo se riusciamo a vederli, c'erano tre grossi elettrodi che stavano nel bagno, e quindi questi con l'acqua elettrica fondevano tutto il materiale caricato. Qui invece vediamo il momento in cui si faceva la colata, questo veniva il foro di colata, c'era un piano in cui si formavano queste lastre. Anche qui si vede come scorre questo metallo, qui forse è meglio ancora. Ecco, questa, quindi abbiamo visto, questi erano i forni che producevano ferro silicio. Qui vediamo uno scorcio, quello che vi ho anticipato prima, il discorso che a suo tempo i forni avevano dei semplici camini dove i gas di combustione uscivano. Questo invece è stato, si è dovuto raccogliere quei gas di combustione e portarli in questo filtro. Essendo questi materiali polverosi, materiali che non è che avessero una carica, cioè bisognava avere un filtro a maniche, questo era un filtro a maniche per filtrare tutti i fumi che provenivano dai forni ferroviari. Mi pare, se non erro, si arrivava su un ordine delle 2000 maniche, qualcosa del genere. Qui siamo passati a un'altra fase, e questa è la fase che prevedeva il raddrizzamento. Vedete questa specie di anello di ferro, erano questi famosi dischi che uscivano dai forni di reazione tutti deformati, e bisognava spianarli, bisognava renderli ancora per utilizzarli, dovevano essere spianati, e quindi ecco un forno a tune dove venivano riscaldati. Questa Paglione Benetti è una pressa, quando questo arrivava sotto la pressa si chiudeva, e quindi poi su lì questi camminavano ed andavano, cioè il raffreddamento seguiva un percorso che era abbastanza complesso, perché dovevano essere poi addirittura cosparsi di calce, e poi dovevano passare attraverso la smerigliatrice, cioè un lavoro non indifferente. Questo è il cuore dello stabilimento. Qui noi vediamo la serie di forni, che questi sono veramente. Allora, immaginate una pentola a pressione a rovescio. Questa è una pentola a pressione a rovescio perché non si fa la pressione dentro, ma si fa il vuoto. E se forse vediamo, forse qui lo vediamo meglio, questa, quella parte sotto dove c'è questa scaletta, questa è la parte fissa, la parte gialla che la vedete sotto con questa serie di bolloni qui, è la parte mobile. Ogni forno era dotato di due parti, questa si chiamava campana, e praticamente in quest'area superiore andava a condensare il magnesio in un sistema che veramente, pensandoci, chi è riuscito a realizzare questa cosa aveva molta, è stato bravo, dobbiamo dire che veramente, perché se ci si pensa ha avuto un intuito, e qui bisogna andare a l'ingegnere Ravelli, che da questo punto di vista è stato veramente, ha avuto veramente questo genio, ecco. Ora, ogni forno era dotato di due parti, una che era questo era un raffreddamento dove finita la reazione, questa parte veniva trasferita in quest'area qui per il raffreddamento. Le reazioni avvenivano, duravano 24 ore, per cui si continuava a guarire. E quindi nel frattempo, mentre avveniva la reazione, questa parte raffreddata bisognava portarla nell'area dove si andava a togliere le parti interne e a demolire, a togliere il magnesio che si era condensato sulle parti metalliche. Di queste unità ultimamente ce n'erano 16, quindi erano 16 fondi che lavoravano. Questo è uno dei capannoni che abbiamo visto all'interno, questa è la parte esterna, questa è un'area, qui si vede, questa è la sala quadri e qui siamo già in una fase di demolizione. Questa è una vista dello stabilimento ultimamente. È stato interessante mettere questa fotografia perché qui si vede già l'accumulo di questi materiali. Questo materiale era il residuo del bisilicato di calcio che per molti anni è stato utilizzato da una ditta di Mori per fare calce idraulica, e molte case del Veneto sono state costruite, cioè intonacate, dico costruite intonacate con questi prodotti. È una calce idraulica che poi a un certo punto sono subentrati prodotti che probabilmente davano maggiori garanzie, anche perché il residuo che avveniva in questo materiale, il residuo dell'ossido di magnesio che non riusciva ad esaurirsi, creava dei problemi perché formava con l'umidità formava ammoniaca, e quindi questo era un discorso che dava fastidio veramente nelle case. Questo ha creato un grosso problema. Ultimamente ha creato veramente un grosso problema perché non si sapeva più dove smerciare questo materiale. La ditta di Mori non lavorava, non accettava più questo discorso perché il suo mercato era finito, e quindi è uno dei problemi che hanno anche determinato un po' la fine dello stabilimento, perché veramente ultimamente c'era la ditta austriaca che stava cercando, difatti erano già stati fatti dei capannoni, stava cercando di utilizzare questo per formare del materiale, per costruzioni, cioè formare dei mattoni per fare le costruzioni. Ecco, questo è il cristallo di magnesio che voi vedete qui, ossidato, questo è ancora bello lucido. E io ho voluto chiudere questa rassegna di fotografie con questa cosa, che praticamente è il prodotto che giustamente il Signore ci ha portato in omaggio. Adesso abbiamo finito una serie di fotografie, lasciamo questo come simbolo, vorrei soltanto parlare un attimino di quelle che sono state praticamente le condizioni, cioè i rapporti umani che esistevano nello stabilimento, che questa è una cosa molto importante e di cui abbiamo anche delle testimonianze, perché passando adesso lì in via Buozzi e in via Volta, dico, penso che anche i miei colleghi che vedo qui a un certo punto si sentono un po' un altro lavoro, perché praticamente abbiamo passato molti anni lì dentro, e quindi vedere che adesso ci stanno tutte queste belle costruzioni, tutte belle eccetera, però non si sente quello che era il classico rumore del battipalo, dell'arco dei forni, e di tante altre, dei mulini. I mulini, avevamo tre mulini che, con un paio di sfere d'acciaio dentro che ruotavano in continuazione, quindi il rumore era abbastanza assordante. E indubbiamente queste cose fanno riflettere. E poi chi lavorava lì dentro si sentiva come a casa, malgrado le condizioni di lavoro fossero difficili, faticose, sporche. E non dobbiamo neanche dimenticare, cosa che oggi i nostri giovani dovrebbero anche imparare, che la produzione era a fuoco continuo, era organizzata su dei turni che coprivano le 24 ore, non è che ci fosse stato a dire no, e non c'era tregua, non c'era Natale e Pasqua, si lavorava, eravamo sempre impegnati. Quindi queste sono le condizioni in cui, tanto per rifarmi un attimino quello che è il discorso fabbrica, questa era la fabbrica. Indubbiamente questi rapporti umani hanno fatto sì, anche per merito della sensibilità dei dirigenti, a un certo punto è stato fondato il gruppo Anziani nel 1967. Il gruppo Anziani cosa prevedeva? Prevedeva che uno maschio che aveva raggiunto i 25 anni di lavoro continuo alla Magnesio riceveva una medaglia d'oro, un diploma e un distintivo. E praticamente anche gli operai? Come? Solo gli impiegati o anche gli operai? No, tutti. Tutti coloro che avevano raggiunto i 25 anni maschi e 20 anni le donne ricevevano questo. Difatti questo è il gruppo Anziani, che poi chiaramente era finanziato dalla ditta, poi dopo finita quello che è stato praticamente il periodo. Difatti adesso vorrei vedere, io avevo segnato, perché il gruppo Anziani si è chiuso, sì, allora la prima premiazione è avvenuta nel 68, il primo maggio, si faceva sempre il primo maggio la premiazione, e quindi si è ripetuta annualmente fino al 1987, ed erano stati raggiunti 184 soci. E devo dire che qui c'è stata un'iniziativa molto importante, ed è quella del gruppo Anziani, che ha voluto, io non ricordo bene come sia nata la cosa, però probabilmente parlando si è voluto fare un capitello, questo stava vicino alla mensa, dove si facevano le feste, praticamente dove si celebravano anche quando era il tempo di Natale, che si premiavano i figli con dei regali, qualcosa del genere. Questo. E si è fatto un capitello, e chi si è dedicato a questa cosa era un esperto che dentro aveva la ditta che lavorava a fare il montaggio di quello che erano tutte i rifrattari dei forni, e dire che sotto certi aspetti era anche un artista. E lui cosa, quando gli è stata data questa, quando è richiesta questa cosa, lui ha preso dei pezzi di dolomite e dei pezzi di quarzo, e con questi ha fatto un capitello dove è stata posta una Madonna che è stata offerta dall'allora presidente del gruppo Anziani, che era sempre l'ingegnere Lavelli. Ora, quando la fabbrica praticamente lentamente si andava sciogliendo, diciamo, demolendo, c'è stata un'iniziativa, perché a quell'epoca era assessore il dottor Michele Di Pupo, e quindi lui frequentava spesso, perché anche c'era in trattativa questo stabilimento, questa soluzione eccetera, per cui ha visto questo capitello e ha proposto al parroco di Don Bosco di portare il capitello intero a Don Bosco, perché il parroco ha detto no, al limite posso accettare la Madonna, ed è stata organizzata difatti una festa, cioè con la consegna ufficiale della Madonna, che poi è stata chiamata la Madonna del lavoratore, del lavoratore, ed è quindi questa sta ancora, cioè ancora è fissa davanti alla canonica di Don Bosco. C'è questa Madonna che, caso vuole, è giusto dirlo, l'originale dopo breve tempo è stata rubata, perché era stata messa in una teca di vetro, però senza, e la Madonna qualcuno probabilmente, perché era veramente qualcosa di artistico, e da allora è stata poi rifatta, però non è quella originale, è stata rifatta sempre per merito dell'assessorato all'industria, e quindi adesso giace ancora lì, praticamente è finita. Allora il gruppo anziani aveva detto che finita la fabbrica non aveva più ragione di essere, e si è sciolto nel 1990, praticamente il gruppo anziani si è sciolto, però un gruppo di lavoratori, tra i quali il sottoscritto, ha deciso di costituire un gruppo che è stato chiamato Amici Ex Dipendenti Magnesio, e vi devo dire che dopo 25 anni, cioè 1990, sono passati forse di più di 26, sono 27, ci troviamo ancora a Natale a festeggiare, a scambiarci gli auguri e a ricordare quelli che sono scomparsi. Con questo io ritengo di aver finito, vi ringrazio per la vostra attenzione. Non resta che ringraziare a mia volta tutti voi, l'autore, e davvero non me la sento di aggiungere altro, è stata una bella prova di narrazione e, scusate, anche di democrazia, quindi grazie a tutti voi.